Ad alta voce Elisabetta Piccolomini legge L'Edera di Grazia Deledda. Dodicesima puntata. Ella uscì nell'andito, ma non aprì subito. «Annessa, apri, sono io!» disse Paolo battendo di nuovo alla porta. Ella chiuse l'uscio, ma poi, per timore che Paolo volesse attraversare la camera per andare in cucina, rientrò, si avvicinò al letto, sollevò la coperta. Il vecchio, con la testa abbandonata sui cuscini, stringeva i pugni e teneva gli occhi aperti, la bocca spalancata. Il suo viso era rosso, d'un rossore lividognolo, e pareva ridesse sguaiatamente. Ella non dimenticò mai quel viso colorito, quella bocca aperta che lasciava scorgere quattro denti corrosi, quegli occhi che riflettevano la fiammella del lume che ella teneva in mano e parevano vivi, beffarti, ridenti. Paolo picchiò ancora. Ella distese la coperta sul letto, coprì il vecchio fino al collo, poi uscì e, dopo aver deposto il lume sulla scala, aprì. «Annessa, che fai?» domandò Paolo. «Mi vestivo. Come sei tu, Paolo? E il cavallo?» Egli entrò avvolto nel lungo cappotto bagnato con una piccola bisaccia in mano. Era pallido, ma sorrideva e i suoi occhi scintillavano, e Annessa, dopo averlo sognato agonizzante, sentì un'angoscia mortale nel vederlo così insolitamente sereno. Egli disse scherzando: «Il cavallo? L'ho venduto.» Poi aggiunse serio: «Non mi hai sentito passare poco fa? Ho pensato che il temporale avesse inondato la tettoia, perciò ho lasciato il cavallo da zio Castigu perché domani lo conduca al pascolo.» Non era la prima volta che questo avveniva, ma ella se ne meravigliò come d'un fatto straordinario. Paolo si tolse il cappotto. Ella si affrettò a levarglielo di mano e ricordò la sua preoccupazione durante il temporale. «Il cuore mi diceva che eri in viaggio», disse sottovoce, poiché le sembrava che il vecchio sentisse ancora. «Ma non ti aspettavamo. Ho ricevuto il biglietto.» «Che spavento! Ho avuto la febbre.» «Lo vedo che tremi», mormorò Paolo. «Sai, invece, ho trovato i denari. Aspettami un momento, vado su e scendo subito.» Ella fece un rapido movimento verso di lui, lo guardò con gli occhi spalancati. Egli l'abbracciò, la strinse a sé, la baciò sulle labbra. «Sì, ho trovato, aspettami.» La lasciò, prese il lume e salì alle stanze superiori. Ella non sentì la stretta, non sentì il bacio, non capì che due sole cose, orribili, orribili. Egli aveva trovato i denari. Egli era passato prima che ella commettesse il delitto e non aveva picchiato alla porta. Sedette sul gradino della scala al buio, col cappotto grave e umido sulle ginocchia, e le parve che un peso enorme la schiacciasse. Egli era passato e non l'aveva avvertita. Egli era salvo ed ella era perduta. Ma la stessa disperazione le diede un impeto di forza. Si ribellò al dolore, al rimorso, alla paura, a tutte le cose terribili che la avvolgevano e la soffocavano, come la coperta aveva soffocato il vecchio. S'alzò, lasciò cadere il cappotto, attraversò l'andito e aprì la porta che dava sull'orto. Vide lo sfondo lunare del cielo argenteo sopra il bosco nero e respirò. «Ho fatto tutto per lui», pensò, intrecciando con moto convulso le mani. «Ero cieca, non vedevo, non sentivo, ed egli è passato e non mi ha avvertito. Egli mi ha scritto che voleva morire e invece sperava ancora. Mi ha ingannato, mi ha ingannato.» Paolo la sorprese sul limitare della porta spalancata e pensò che ella avesse aperto per uscire con lui nell'orto, come di solito facevano. La prese quindi per la vita e la trascinò con sé. Il terreno era umido, la notte fresca. L'acqua del fossatello in fondo all'orto, ingrossata dall'acquazzone, brillava alla luna. Dal bosco veniva un odore di erba e di terra bagnata. Annessa non si accorgeva di nulla, ma Paolo, nonostante la stanchezza del viaggio, provava un'eccitazione febbrile, sentiva la dolcezza della notte, voleva partecipare la sua gioia all'amante, gli pareva giusto, dovendo farsi perdonare da lei qualche torto. Non s'avanzarono fino al bosco, troppo umido quella notte. Rasentarono la casa e si fermarono vicino alla porticina del cortile. «Ti sarai spaventata», egli disse, tenendola sempre stretta a sé. «Mi sono pentito di quel biglietto, ero disperato. Ti racconterò tutto adesso. Ti sei spaventata, vero?» Annessa non rispose, pareva indispettita. «Ebbene, perdonami, sta allegra. Senti che cosa mi è capitato. Sarà meglio che chiuda la porta di casa e faccia il giro per aprire qui. Staremo meglio nel cortile. È tardi, è tanto tardi», ella mormorò cercando di liberarsi dalla stretta di lui. «Aspetta un po', Annessa, non mi hai dato ancora un bacio?» Egli la baciò con più ardore del solito. Pareva che avesse corso qualche pericolo, che avesse temuto di non rivederla più e, rivedendola, sentisse di amarla più di quanto credeva. Ella scottava, tremava, ma non per i baci di lui. Vedeva sempre davanti a sé il viso colorito e il sorriso macabro del vecchio e temeva e sperava che egli potesse tornare in vita. «Chiamando il medico, forse», pensava. «Annessa, che hai? La febbre?» proseguì Paolo. «Adesso andrai a letto, aspetta, solo volevo dirti che cosa mi è capitato dopo che ho scritto il biglietto. Sono ritornato nel paese di Dompeo. Egli mi aveva fatto conoscere la vedova di un brigadiere, una certa Zana che presta denari a interessi. La prima volta ella mi aveva detto di no. Spinto dalla disperazione, torno da questa vedova e le dico...» Egli mentiva e sentiva di mentire male, ma Annessa non se ne accorgeva. La storia da lui raccontata la interessava fino a un certo punto. Ormai ben altre cose le passavano per la mente, eppure provava un certo dispetto contro la vedova che, al dire di Paolo, si era lasciata commuovere e gli aveva prestato lì per lì 600 scudi all'interesse del 10%. «È giovane o vecchia?» domandò. «E chi lo sa, sembra giovane, ma a guardarla bene, infine...» si corresse subito Paolo. «Questo non importa, ciò che importa è che ha dato i denari». «Lasciami, vado e chiudo», supplicò Annessa spaventata. «Mi è parso di sentire un rumore. Donna Rachele può essersi svegliata, hai fatto tanto chiasso. Dormivano tutti, sta tranquilla. Lasciami andare, Paolo, ho paura. Se ci trovano nel cortile, poco male. Fingiamo di prendere legna per accendere il fuoco e asciugare il tuo cappotto, ma qui è tardi». Egli la lasciò. E la corse, leggera e silenziosa, rientrò, chiuse. Paolo aveva lasciato il lume nell'andito e la lo prese, entrò nella camera in punta di piedi e si avvicinò al lettuccio, attratta da una misteriosa suggestione. Il vecchio era sempre là, immobile e livido sotto la coperta. E rideva ancora col suo riso spaventoso, con la testa abbandonata sul cuscino e i quattro denti neri nel lividore della bocca aperta. Ella lo guardava e non le pareva possibile che egli fosse morto e avrebbe voluto scuoterlo, chiamarlo, ma aveva paura. Sempre in punta di piedi tornò in cucina, riaprì le porte e si ritrovò con Paolo che le domandò sottovoce: «Non sei svegliato?» «No, no», ella rispose, «dorme. Non si è neppure svegliato quando hai suonato. Ha avuto un accesso d'asma, poi si è addormentato. Pare morto. Ho paura». «Lo fosse almeno», egli disse con indifferenza. «Del resto non abbiamo più bisogno di lui, cioè, se morisse mi farebbe piacere, così non starei in debito verso una donna come la vedova del brigadiere». Ella avrebbe voluto insistere, pregarlo di andare in cerca del medico, ma aveva paura si scoprisse la terribile verità. Anche Paolo cambiò subito discorso. Entrambi avevano qualcosa da nascondersi e, preoccupati di questo, non si accorgevano della menzogna reciproca. Ella però capiva che doveva mostrarsi più allegra e fingere meglio. Sono contenta che tu abbia trovato, disse con voce tremante. Adesso non ripartirai presto, spero. Il tuo biglietto mi ha tanto spaventata, sai, credevo che tu volessi morire. Non parliamone più. Sono qui e spero, infatti, di non ripartire presto. Ho pensato sempre a te, Annessa. Ho pensato, ora potremo respirare alquanto. Io potrò lavorare, potrò... Sì, voglio fare qualcosa. È tempo di pensare ai casi miei. Don Peu mi ha proposto un affare. Egli possiede una miniera sui monti di Lula e vuole esplorarla. Gli ho chiesto scherzando se voleva prendermi con sé come sorvegliante e cantiniere dei lavoratori. Gli dissi che desideravo allontanarmi per un po' di tempo da questo paese dove tutto mi riesce odioso. Egli accettò. «Tu, cantiniere, tu», disse Annessa con dolore. «Io sì, che male c'è? Non è vergogna lavorare, Annessa, e poi non sarebbe neppure lavoro il mio. Con 1000 lire metterei sulla cantina, cioè una specie di trattoria dove i minatori si provvedono del pranzo e di quanto loro occorre. Guadagnerei il 1000%. Sì, è conveniente, ci ho pensato bene, sono contento, più per questo che per aver trovato i denari. Chissà, Annessa, forse la sorte si è stancata di perseguitarci. Non dire nulla però, neppure alla mamma. Prima ho bisogno di aggiustare i nostri affari. Sono davvero contento», ripeté esaltandosi. «Sono contento. Anche per quel diavolo maledetto di vecchio, gli farò vedere che non abbiamo bisogno di lui. E se continua a tormentarci, lo farò cacciar via di casa. No, non abbiamo più bisogno di lui. Ma tu tremi, Anna, perché non prendi qualche cosa? Hai provato a bere un po' di caffè? Senti, anch'io voglio qualche cosa, sento un po' di freddo. Vuoi mangiare? C'è qualcosa. Oggi avevamo il pranzo dei poveri. Mangiare no, bere. Vado in cantina, poi torno. Vorrei parlare anche con mia madre per dirle che ho trovato i denari, ma aspetterò domani. Tu vuoi passare nella camera?» E la chiese spaventata. «Ebbene sì, se si sveglia che importa? Non posso fare quel che voglio in casa mia. Non ho più paura di lui. No, no, no, no. Aspetta, ti porterò da bere qui. Non passare, non svegliare donna Rachele. Tanto stanca, tanto lavorato». E poiché ella voleva di nuovo allontanarsi, Paolo la trattenne. «Aspetta un momento, avevo da dirti una cosa, ora non ricordo più, lascia stare, non voglio bere più, sai? Anche ieri sera ho bevuto, anche oggi un pochino e anche domani», mormorò Annessa che sapeva quanto valevano le promesse di Paolo, non esclusa quella di cercarsi un impiego e di mettersi a lavorare. «Ah, tu non ci credi», egli protestò. «Vedrai, vedrai. Da domani io voglio essere un altro». «Domani. Che accadrà domani?» ella pensò. Paolo la sentì rabbrividire e la pregò di andarsene a letto, ma ella insisteva. «Ti porto da bere, vado e torno. Aspetta, anch'io devo dirti una cosa. Dimmela, ti ripeto che non voglio più bere. Ah, tu non credi che io non possa tenere una promessa? Non sono più un fanciullo. In questi ultimi giorni ho pensato ai casi miei e ho deciso di finirla con tutte le sciocchezze. Anche con me? Sì, anche con te. Senti, Annessa, desideravo parlare prima con mia madre per domandarle consiglio, ma poiché sento che ella non potrà che consigliarmi di fare il mio dovere, ti dirò... Ebbene sì, tu devi averlo capito». «Io non capisco», ella mormorò sollevando gli occhi che aveva tenuto sempre chini, quasi il sonno la vincesse. «Tu non capisci? Io voglio sposarti, Annessa. Ti porterò via con me, andremo nelle miniere, nessuno si metterà più tra noi». Egli non disse, forse perché non lo confessava neppure a se stesso, che un po' di calcolo entrava in questa sua decisione. Aveva bisogno di compagnia per resistere alla solitudine e alla desolazione del soggiorno sulle aride montagne di Lula. E aveva bisogno di una donna per aiutarlo nella meschina bisogna di cantiniere. Del resto, per dire il vero, l'idea di sposare o semplicemente condurre con sé Annessa lo incoraggiava nel proposito di recarsi nelle miniere. Ad ogni modo, egli si aspettava per parte di lei una viva manifestazione di gioia. Ella invece pareva non capire, o piuttosto non credere alle parole di lui, e per la seconda volta provò un'impressione strana, di soffocamento, di vertigine. Le sembrò di sentire in lontananza una risata misteriosa, triste, beffarda. «Perché ridi?» domandò Paolo sorpreso. «Che c'è da ridere? Tu non credi più a quello che ti dico? Non parlo più dunque, ma ti ripeto, vedrai se son bugiardo o no. Parleremo meglio domani, ora vado anch'io a letto, sono stanco e qui fa freddo e tu hai la febbre. Parleremo domani». Fece un passo, poi si fermò ancora e disse con un po' di ironia: «O non ti piacerebbe venire con me nella miniera?» Ella non rispose, ma gli si avvinghiò al collo e scoppiò a piangere. E tutto quanto vedi più amaro nel pianto umano, la disperazione, il rimorso, l'odio contro il destino che si diverte mostruosamente a tormentarci, vibrò nel pianto di lei. Paolo era abituato a veder piangere la sua poco allegra amica. Qualche volta si commuoveva anche lui, qualche volta si irritava. Ora, non potendo spiegarsi in altro modo l'eccitazione di lei, la attribuì alla gioia, alla speranza, alla passione che ella doveva provare in quel momento. Ma quando era allegro, egli amava la gente allegra. «Annessa», disse, «finiscila, lo sai, non mi piace vederti piangere. Abbiamo pianto abbastanza, è tempo di finirla. Su, dimmi qualche cosa prima di lasciarci, poiché veramente non hai aperto bocca che per pronunziare cattive parole. Quando vuoi, però, sai parlare bene. Dimmi una buona parola e poi andiamocene a dormire. Oggi è stata una giornata ben lunga e faticosa. Adesso tutto è finito, però. Perché? Perché continui, ragazza? Credi pure, oramai, tutto è finito. Arriva un momento di riposo per tutti». Ella piangeva col viso nascosto sul petto di lui. Avrebbe voluto morire così, sciogliersi in lacrime, addormentarsi per sempre. Una stanchezza mortale le pesava sulle spalle, le piegava la testa. Ogni parola di Paolo la colpiva. Le riusciva dolce e tormentosa nello stesso tempo. Egli cercò di staccarsi da lei, ma non gli riuscì. Ella aveva una terribile paura che egli, passando per la camera, si accorgesse del delitto e temeva anche di star sola sebbene il sonno la vincesse. Come i febbricitanti e le persone circondate da gravi pericoli, non voleva addormentarsi. Già mille fantasmi le apparivano in lontananza. Tutto diventava sempre più torbido e pauroso intorno a lei. Paolo, che era stanco e voleva ritirarsi, la trascinò con sé fino alla porta di cucina, ma quando vide la candela posata per terra vicino al focolare, ella ricominciò a tremare, a battere i denti e si strinse maggiormente a lui. «Non soffocarmi», egli le disse all'orecchio scherzando. Ella lo lasciò subito e si irrigidì. Ma perché egli non se ne andasse? Cominciò a parlare. Pareva vaneggiasse. «Aspetta, ho da dirti una cosa. Non occorre aspettare a domani per parlare. Verrò nella miniera. Sicuro, se vuoi, posso venire da domani, da stanotte. Verrò. Come puoi aver pensato il contrario? Vuol dire che non mi conosci, se no sapresti che con te io verrei nell'esilio, lontano, in altre terre, nelle altre parti del mondo. Se tu commettessi un delitto, verrei con te nell'ergastolo, porterei le catene, non ti lascerei mai, metterei la mia mano fra la tua carne e le catene». «Speriamo non occorra», egli osservò poco turbato. «Senti Paolo, dovevo dirti una cosa, aspetta», ella proseguì passandosi una mano sul viso. «Ah, ecco, non voglio che tu parli con tua madre riguardo al nostro matrimonio, non parlarne con nessuno». «Hai paura di Gantine?» Ella non ci pensava neppure e accennò semplicemente di no. «Le dirai soltanto che vuoi andare nelle miniere, che mi porterai con te come serva, perché solo non potresti vivere lassù. Mi lasceranno venire, sì. Dopo, se occorrerà, ci sposeremo. Io non lo pretendo, lo sai. Basta che tu non mi abbandoni. Se Dio esiste, ci perdonerà. I preti assolvono tutto, non è vero? Che ne dici? Prete Virdis mi assolverà, lo so, mi assolverà. Mia madre acconsentirà meglio a lasciarci sposare che a partire assieme, soli, per un luogo lontano. Mi dispiace, ma io verrò ugualmente, anche se lei non vorrà. Io bacio le mani dei miei benefattori, ma vengo con te, Paolo. Fuggirò se tu vai via. Ella continuò prendendogli un braccio e stringendolo forte. Tu non mi lascerai qui, vero? Bada che ora hai promesso. Non voglio che tu mi sposi, ma voglio che mi porti via con te. Hai promesso, sai, Paolo? Hai promesso. Paolo, Annessa, che hai? Egli disse inquieto. Ho promesso e manterrò. Va a letto. Prenditi qualcosa. Non vedi che hai la febbre. Vai. Se sapevo non ti dicevo niente stasera. Ma ella non badava le parole di lui. Il suo pensiero vagava lontano. È lontana la miniera? No. Bisogna passare per Nuoro. Poi si arriva lassù, dopo 5 o 6 ore di viaggio a cavallo. Ma va a dormire, Cristiana, parleremo di questo domani. Passerò in punta di piedi nella camera, l'istrice non si sveglierà. Tu chiudi e va subito a letto. Su, Annessa, non farmi adirare. La baciò ancora, ma sulle labbra di lei non sentì che il sapore salato delle lacrime. Poi attraversò la cucina senza far rumore ed ella provò quasi un impeto di gioia nell'accorgersi che egli non prendeva il lume. Con gli occhi spalancati, il respiro sospeso, ella ascoltò. E quando i passi furtivi di lui cessarono, le parve di essere sola nel mondo, abbandonata da tutti, sul limitare di una porta che s'apriva su un luogo di terrore e di morte. Dopo un momento di esitazione entrò e chiuse, ma non ebbe più il coraggio di entrare nella camera per quanto una suggestione malefica l'attirasse là dentro. Sedette accanto al focolare, al posto dove s'era indugiata qualche ora prima, e frugò la cenere con un fuscello. Il fuoco s'era spento completamente. Ella sentiva freddo, ma non osò o non ebbe più la forza di muoversi. Rimise i gomiti sulle ginocchia, il viso tra le mani, e le parve che la testa le girasse vertiginosamente intorno al collo, e questa impressione le riusciva quasi piacevole. Le pareva di non essersi mossa da quel posto in tutta la notte. Tutto era stato un sogno orribile da prima, triste e dolce poi. Il vecchio dormiva ancora, Paolo viaggiava, avvolto nel suo cappotto bagnato. Le visioni della febbre tornavano a circondarla. Fantasmi apparivano e sparivano tra la nebbia. A momenti ella li riconosceva. Zio Castigo, Prete Virdis, Rosa, Cantine. Ma poi, nel mistero della nebbia, avvenivano strane metamorfosi. Zio Castigo le sorrideva con la bocca infantile del suo giovane fidanzato. Sulla sottana di Prete Virdis si disegnava il viso triste di Rosa e la figura incappucciata che viaggiava su un cavallo fantastico in lontananza, nero sullo sfondo della notte vaporosa. Non era Paolo, no? Era un essere misterioso. Un vecchio mendicante che andava verso le miniere di Lula in cerca di una bambina smarrita. Annessa smaniava e gemeva. Nel sonno sentiva i suoi gemiti e sapeva di sognare, ma per quanti sforzi facesse non riusciva a svegliarsi. Così dormì qualche ora, tormentata da sogni febbrili. Elisabetta Piccolomini ha letto L'Edera di Grazia Deledda, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutto tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.